Thank you.

Thank you. Thank you. hai tu detto, eccone 10, e dopo lo dai il resto. Egli rimane, alla mezzanotte ritornerò. Non fare, ma non farmi più bel pasto io so. Sono il suo fare lo stesso. E a partire suo nome. Vuoi sapere anche il mio? Thank you. Thank you. Thank you.